Siamo in collegamento con Walter Mramor, il presidente del Teatro Duse di Bologna. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno ai radioascoltatori, a tutti. Stavate per presentare la nuova stagione teatrale, eravate pronti a ripartire con tutte le varie norme di sicurezza del periodo, ma siete stati costretti a fermarvi. Quali sono i contraccolpi reali che dovete ora sostenere? Beh, innanzitutto lo shock iniziale, perché ti assicuro questi mesi sono stati di lavoro intenso e molto faticoso. Devo dire che è stato il lavoro più faticoso della mia vita e io ne ho fatto tanto di lavoro teatrale. Quindi lo shock è stato il primo sentimento, la prima, siamo ancora un po' frastornati. E le ripercussioni sono tante, innanzitutto rimettersi in moto e ricalibrare la stagione, riprogrammare, ripensarla. E poi ripensarla come? Nel senso che non sappiamo con certezza quando potremo ripartire. Per ora la chiusura è fissata fino al 24 di novembre e quindi noi riprogrammiamo dal 25 novembre in poi. Però insomma è faticosa, è dura, anche perché per adeguarsi alle normative sulla sicurezza noi abbiamo fatto degli investimenti economici notevoli e quindi diventa poi anche un fattore economico importante. Se pensi che il Teatro Duse per il 92% è sostenuto dall'ingresso del pubblico, quindi dallo sbigliettamento, capisci che senza sbigliettamento noi proprio non abbiamo quasi per niente sostegni economici. Spero che le istituzioni, vista la gravità della situazione, ci siano vicini, sia le istituzioni locali che quelle nazionali, insomma, che ci sostengano, perché la mia prima preoccupazione da presidente è quella dei lavoratori che rischiano di rimanere a casa e quindi io devo fare di tutto perché questi lavoratori possano comunque trovare il modo di avere uno stipendio o un sostegno per questo periodo di fermo, perché anche i lavoratori dello spettacolo e anche i lavoratori del Teatro Duse tengono famiglia, come si dice. Certo, e quindi la mia prima preoccupazione è quella di tutelare i lavoratori e la seconda è ugualmente importante, è quella di riabbracciare quanto prima il pubblico, il nostro pubblico, riaprire le porte del teatro e ridare forza alla comunità e ritrovare in teatro la felicità dello stare insieme. Il nostro pubblico è un pubblico davvero vasto, molto affezionato, che ringrazio ancora perché ci ha abbracciati fin dal primo anno di riapertura del Teatro Duse ed era tanto, noi avevamo una media di 800 spettatori a sera ed era questo pubblico che sosteneva il teatro. Ora speriamo che si possa superare anche grazie alla funzione e al servizio pubblico del teatro, del nostro teatro, questo momento e ricostruire una comunità che in questo momento è spaventata e impressionata, insomma, dalla pandemia. No, c'è molto da fare sia da un punto di vista operativo, quello proprio di riprogrammare il teatro, sia dal punto di vista di una ricostruzione di pubblico, di senso dello spazio teatrale, del Teatro Duse e del teatro credo in Italia. Spezzerei una lancia, se possibile, a favore del teatro privato, perché è quello più penalizzato da questa pandemia e quindi avremo bisogno di un'attenzione particolare da parte delle istituzioni. Certo, avete anche realizzato proprio in questi giorni un comunicato stampa in cui chiedete un sostegno reale, concreto alle istituzioni, oltre che ringraziare anche tutte le persone, tutti i lavoratori e lavoratrici che vi stanno accanto in questo periodo. Eh sì, assolutamente, le compagnie sono a nostro fianco, gli artisti sono a nostro fianco e in questa fisarmonica di programmazione siamo tutti uniti, ci aiutiamo a vicenda. Ma io sento a nostro fianco fortemente anche le istituzioni, nel senso che so che ci seguono, che ci stanno vicine e credo sinceramente che accoglieranno il nostro appello e ci staranno ancora più vicine perché la situazione è davvero difficile. E poi continuamente sento l'affetto del grande popolo del Duse che è veramente ampio. L'anno scorso abbiamo registrato oltre 120.000 spettatori in un anno, quindi lo sento vicino, riceviamo continuamente mail di sostegno, telefonate di sostegno, quindi penso che la ripartenza come posso dire, si avvierà e porterà a una, diciamo, a un ritorno, dire, alla riapertura. Non credo che il pubblico rimarrà tanto lontano dal teatro, però dobbiamo dargli fiducia. Certo. Si sa che a teatro, il teatro è un posto, diciamo, abbastanza, io direi anche molto sicuro, perché è un posto molto controllato, vengono rispettate tutte le normative, la distanza, la mascherina, la sanificazione, quindi diciamo, insomma, trovo che questa chiusura così sia stata forse un pochino troppo potente, ecco, ci ha proprio inginocchiati, ci ha messo in ginocchio, questo lo devo dire. Poi sono una persona positiva, vedo e immagino già il futuro, molti sono gli spettacoli che abbiamo in cantiere, sono bellissimi, molti gli artisti che sono stati programmati, ovviamente quelli arriveranno, dobbiamo solo aspettare ancora un po'. Bene, quindi speriamo di poterci risentire per presentare questa volta ufficialmente la nuova stagione del Teatro Duse. Assolutamente, la grande stagione del Teatro Duse, uno dei più grandi teatri d'Italia e posso dire uno degli teatri più amati dagli artisti d'Italia, nel senso proprio è fra i primi 10 teatri italiani e sono veramente onorato di poter, diciamo, essere così a capo di questa struttura che è stata rilanciata da 10 anni e che è un grande successo. Io la ringrazio per questo approfondimento sulla situazione del suo teatro nella nostra città. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.